Il punto di Stefano Folli. Il primo passo verso l'uscita di Berlusconi dal Parlamento è avvenuto con il voto della Giunta, per il resto ci vorrà qualche settimana, ma il fatto nuovo è che lo stesso Berlusconi accetta il suo destino, ammette che la battaglia è persa e si prepara alla decadenza. Forse sta pensando di dimettersi prima del voto decisivo e lo fa senza far saltare in aria il governo delle larghe intese, contro il quale nel suo videomessaggio non scaglia alcuna freccia, a differenza degli strali riservati alla magistratura, ma questa davvero non è più una notizia. Epifani ha voluto vedere una volontà eversiva nel discorso, invece si è trattato dell'appello amaro e persino drammatico di un uomo che fronteggia la sconfitta e che spera di rovesciare la logica delle cose rilanciando il vecchio progetto di Forza Italia, un ritorno a 20 anni fa che ha il sapore della nostalgia più che della politica. Quanto Enrico Letta non può credere che il suo governo si sia rafforzato, il logoramento è in atto, a meno di qualche gesto di riscossa, e la questione del punto di IVA è fin troppo significativa.